No, cioè la faccio da commissione. Adesso la prossima settimana. Scappa. Ma non è lì con te. Ah no, oggi sono solo il soletto. Ah, cappa, cappa, dai. Ah, da bravo, bravo. E tu a riposo fa sera tu? A riposo, è da ora. Già va bene, già va bene. Ah, ti sia apparentato, hai bisogno di più voi. Non ci sono? Voi. I bimboi? Pensi che canta ne ha usata. Ma sono domani. Perché sto pure fazzina. Anche se la fa pure. Ebbo, fredda. Ma sei avvicina stasera. E poi vediamo un po'. C'è una pace qua, io sto bene qua, dai. C'è una pace, c'è qua, lui. Passa una macchina, mi ha dato, proprio è dentro l'acqua che c'è dalla fontana, lui. Se le buce hanno quattro le buce tranquille. Eia, eia! Ma non ci sei mai venuto, devo fare per stare benissimo con questa zona. Ehi, a voglia! Buongiorno! Ma che ha occupato, insomma? Chi era tu? Mi sei contento. Tu sei contento? Ma se mi è sembrato, deve essere. Si risolve. quando vorrai, non ci riesci a attenuarlo. No, però guarda, però la temo e scende a voglia. Perché ci siano 50 fatti questo. È come che io sto sbattendo 1000. Ma niente, facciamo una prova, adesso vorrei 9-10 il segnale. Via! Aspetta che attacco una cosa per cercarla, se cala su prestazione. Aspetta 2 secondi. Prova, prova, adesso un quarto. Quelle piccoline proprio, sta sempre abbagliando. Beh, è un bel faccendino, capito? Ma no, un bel. Tanto un bel attento, che si impara subito le cose. Tu mi devi svegliarti, capisci, ma non è possibile. Io ne ho uno tutto nero, ne ho. No, la tira che ho io è color miele. Brino, lui. Un paio d'anni, ho trovato pensare, poverino, che c'era, sì e no, un mese neanche ci arrivava quando l'ho trovato. Chiappa, ma guarda, penso giurare che una imbecille voleva mettere la pasta sugli animali. Oh, yeah, per carità, non sanno più cosa inventare, yeah. Ma l'hanno bocciata subito, una tromba in Parlamento ha presentato quella cosa, quella proposta. Che prova a pagare la tassa dopo il cliente di cute anticarriera. E cosa non ho risolto? Niente, invece non è meglio che abbia una cassa questi animali. E infatti, ce l'ho pensato a chiudere quell'allevamento di Beagle per la registrazione, posto di inventare cassate. Avanti. Io cerco la televisione, non c'è televisione. Sì, buonasera Luigi, dimmi tutto. Sì, buonasera, io sto cercando la televisione, non c'è televisione. Uè, Gigi no Vulcano. A televisione stai cercando. No, non si fa sentire televisione. Che si dice? Mi stavo facendo cosa a casa. Con la facciata mi sono a posto e niente, stavo rilassando un po' adesso. Sempre la lacera. E ho sentito a quei lupi. Già va bene, vai, riprendi il bombolo. Scappa lui. Già un giorno senza sentirti. Cosa c'è? Il supermercato aperto? È positivo aperto, cioè, ma la stanotte non c'è la Teresina, Ha detto lui che non ti ho capito, mi è passata una moto qua, ma ha fatto un casino, che non viene da dire. Ho detto che giovedì notte non c'eri più e c'era televisita, quando c'era televisita non c'eri giovedì notte. No, non c'ero, deve essere. O era un giorno che non... Perché? Che è successo? Niente, dai, c'era questa televisita e... niente, stavo cercando un fidanzato. Ma vero? Anzi, no, nessuno mi ha detto niente qua. E poi, tutto si scrive, si è da niente, si è fatto per il risultato. Ma vero, Daniele? Ehi, Antu, hai tagliato la mano del sogno a quell'ora? Cosa è successo? Ero chiaro, oggi di mezzanotte, insomma, una cosa del genere. Quasi mezzanotte, la fanno più di un'oretta, se voleva tutti questi numeri di telefono devi attrovarmi a Milano, quando vado a Milano con la sua amica, voleva sapere se ero Moreno, se ero Moro, mi dici cosa, io avevo 32 anni, la linea aveva 30. Papà, Fettina, di Milano era stata infatti. No, era di... Ma cosa ha detto? Non ha detto più. Spagnola, ma di Barcellona, mi pare. Di Barcellona. Ehi, a posto di a Milano, a quelle parti lì, mi sembra. Va, aia. Quindi, vabbè, potevi dire che se qui in Sardegna ci sono gli studi più adeguati. Siete facendo la polsegna, no? Se la falchetto oppure non interessa. niente. Ah, ero solo con Luigi voleva parlare. Ma poi c'è da sovramodulato, l'ha detto lui? Quando stiamo descrivendo com'era, ha detto c'è stato troppo ridendo il giorno là. Non ci amo lei anche. Era brutta, anzi, molto caliente era. Allora c'è molto caliente e vieni qua, vieni. Che ti devo dire una cosa? Dici a lui com'è la vocina. Io la voce era bella, ragazzi. Veramente, no? La voce era veramente una bella voce proprio, e poi ha detto lei che era molto caliente, molto molto morena e caliente. Io sono moreno e caliente. Quella che era studiando a Milano, capito? E allora adesso mi faccio trovare a Milano e mi faceva, come facciamo a conoscerci? Come facciamo a capire? Vabbè. Ma qualcuno così con le simpaticone. Poi abbiamo nascosto un po' d'armi. Posso? Ma un poco d'armi. Almeno un 20, così è. Cosa? Tu non ho capito. Tu hai 20 anni più di lui, più di lei, così è. Beh, 30 anni già aveva lì. Aveva 30 anni, adesso ne ho 32. No, io gli ho detto che ho 32. No, io ho 30 anni, troppo. Muccio bene, muccio bene. Cappa, mi sembra che le persone sia intorno a una cinquantina, così è. Ehi, pure sette, vero lui? Ma so che era intorno alla cinquantina. No, 57. Ah, vabbè. Mamma mia, aspetta due minuti. Aspetta che ti faccio entrare. Ti prendi Daniele che vuole entrare la gatta qua, vuole entrare. E fa casino. Ehi, ehi, ehi, vabbè. Già dov'è lui? Va bene, dai, vi lascio nel vostro museolo che sta facendo, dai, che ho entrato tutti facendo e ero solo di passaggio, dai, solo di passaggio al suo. Ehi, Ali, se vuoi rimanere, è un problema. No, no, non c'è da sistemare ancora. Stiamo solo rilassando appena e se vuoi rispettare, se non vuoi, dai. Va bene, dai, lui. Grazie della visita, già. Ci ascoltiamo alle prossime sequenze, ora. Buon proseguo, buon tutto. Ciao, sono salutati a Fragoletta, Fragolina, non mi ricordo. Ma guarda, dai, contrattando la porta è sua. Non avete passeggiato anche lì, però per farlo la cosa non viene, no? Via. Vuoi parlare, vuoi parlare? Ma che bella. Cos'è c'è? Sentita, dai. Ehi, se sentita tu, ho fatto miau. Perché non vuole toccata adesso. Femmina, sì, l'altro è maschio. Ehi, ehi. Già da me, già da me. E che fallo che fine ha fatto? Poco sta entrando, poco. Beh, come mai? Ho problemi a casa. Ah, andava là. Soia. a qualcuno. Sai dove capo la montata? E chi è tu? Io. Ehi, sono... Scusate qua, so se è già è. Basta che ne c'è. Lo so, adesso chissà dove capo la montata. Ma la faccia per dottore, quando è? Ma è la prossima, no? Non lo ricordo, no, Daniel. Ehi, ehi, che domenica c'è anche la processione? Sì, ma cosa dicono? Che dicono? Non lo so io. No, no, quella, la Madonnina domenica. Domenica prossima. Ma non so se è lo stesso... C'è festa anche a Porto Torres domenica. Scappa. So che c'è festa a Porto Torres. Ancora dura... 3 giorni dura una festa. Te lo so. Poi tra poco mi danno i cantarini a Sassari. Ehi, hai avuto? Noi che ci vogliamo molto, no? Vola il tempo, vola, vola. E come? Vola sì. Che fa? Dopo me... A ottobre mi sembra c'è la festa qua, una festa grande. Lì non è per tanti, a che festa è? Non lo sai, è la festa della Madonna delle Alte Dolce. Ah, a ottobre! Sembra, Daniel, non me lo ricordo bene. Io le feste sono negate, non me le ricordo mai. Cazzo, per la festa. L'hanno a far culo. L'anno scorso hanno fatto venire fobia. È vero, non lo ricordo. Ma ricordo il periodo. Tra settembre e ottobre può essere. Calma. Ah, c'è venuto la festa della Madonna della Feroce. No, perché ha avuto ora e stavo lavorando. Capito? Non ce l'ho fatta. A però si passano nei vicini. E la festa, sai. Cazzo, ha fatto un bellissimo concerto, Fobia. Ma bravissimo, non credevo che era così, una persona che sa anche fare. È un pazzo scatenato. Non è come lo vedi lì a Sanremo e cosa. È tutta un'altra cosa il concerto. Chi altro, Daniel? Ehi, a tu! Cara, cara! È tutto quanto un'altra cosa, il concerto. Il concerto è un'altra musica. Così si scattano di più. Ha fatto un bellissimo concerto, poi ha fatto con tutti quelli del comitato, tutta l'organizzazione, compreso il CISON, cosa, l'ha fatto, le ho scattato le foto, wow, un divertimento che non dimenticheremo mai. E che sono pensando chi portano? Tutto dipende dalle finanze che hanno. Chi lo sa. Daniel, se la aspetti 2 minuti proviamo un altro baracchino che un pochettino di tempo sono spento. Prova tu, già sono qua. Mi piace di più. Brava. Vabbè, ma non vai a prendere la piscina tu, io mi ci sta attaccando un baracchino. Ed è Claudio! Ah, più tardi devo uscire, è solo 9:30, vado a fare una passeggiata al centro. Mamma mia, no, lasciate accompagnare mia figlia che doveva andare a... c'è un extra lì, via Roma. mi tocca proprio il turno, vero e proprio, dove scelte le due. Attenzione, cambio! Eia. Avanti, bombolo! Buonasera Claudio! Meglio mi senti, oh Daniel! Cosa vuoi fare più forte dell'altra tu? Scappa! Buonasera Claudio Sparviero! Ciao Antonio Bombolo, buonasera, che te ben ascoltato, te glielo dico. Questo è quasi il doppio arrivi, sei 9-10, con l'altro sei 9, quindi. E poi la radio è molto, molto più forte, vai. Vabbè, poi ce n'è un'altra ancora che arriva ancora di meno. Vabbè, quell'altro, questi due li uso durante il giorno e l'altro lo uso la sera. L'uso la sera, che è proprio il più tranquillo, vai. Va bene, va bene. Oh mio, stavo ascoltando, li ho sentito, sono entrato a salutarvi, perché c'è roba al forno, sto facendo cosa e non posso rimanere in radio, vai. Se coincide, ci sentiamo più tardi, se no fatevela buona. Alle prossime linee a tutti, vai Daniel. E va qua. Non faceva il tempo tutto, dai, già, io come poi già sono ancora qua. E poi vado a prendere la bocca per aria. Ciao Claudio, dai, buon proseguimento anche da parte mia. Ti fai roba buona, sono come niente, a magna. Ma tu, pizze, stiamo formando pizze, capito? Perché in pizzeria oggi ci sarà un casino e non aggiungerà mai mattina mezzo tre pizze, allora a casa ho già messo al forno per iniziare a rosolare bene la pasta e poi rimettiamo il condimento, poi la finiamo e via, anche perché mi pare ci sia la partita stasera, così è la finale di Champions, cioè domani c'è nella Juve. Ehi, la stanotte c'è la finale di Champions League. Ma mi sembra proprio di sì. Allora si può mangiare la pizza, per me rifiutarla è un sacrificio. guarda, vera, sto scherzando. Ehi Anto, c'ho gente, ma se no non c'ho problemi, figurati. C'ho gente, se no non ci stiamo. Se no non c'erano problemi. Ok. Dai, vi saluto e rimango in quelli che comunque vi ascolto e non c'è problema, è tutto acceso qua, anche perché questi amici ancora non sono arrivati, quindi è tutto acceso, dopo spengo. Ci sentiamo magari dopo, va? Ehi, vai però. Ciao. Quella, Antonio, tu sei. Sei che ha detto vai però. Che lui sia, voi se lo butti vai però, a me non è tutti che me lo possono dire, vai però, capito, mi somigliano a bulldozer, no? Vai tu, cosa sia, sta lasciando il casino. No, ho già bagnato io, buonasera a tutti. già bagnato, e lui si è fatto la passeggiatina. Io al solito a fondo non salire qua. E vabbè, quello già, non c'è dubbio. Come sta, bene? Così è, capito, aici. Va bene, non c'è problema, a Roma sono io, ci sentiamo dopo, sto informando, mi sto non informo la notte, mi tocca informare di giorno, non si vede. Che dobbiamo da te, se formelle? La pizza mi ha mandato in aria. Chiamagava, ciao Antonio, ciao Daniele, dai. A me mi ha preforrato adesso. Ma quella farina, non c'è la farina? No, con un mattarello. Antonio li piace in cascio, l'avevo preso. Che è il mattarello, il telegari. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato, anche a te, dai, fatemi andare che c'ho roba al forno, ci sentiamo tra la mattina, avanti Giuseppe. Ah, buonasera. Ciao a tutti, dai, ci sentiamo più tardi che sto facendo cosa. C'è Giuseppe Tornado che ha salutato. Avanti Giuseppe Tornado, buonasera. Buonasera, 7 e 3 anche a te, dai. Dai, 7-3, ben ascoltato. Cosa, da dove moduli, da casa? Cava, settore fissa. Aprire, perfetto, guarda, sta arrivando una spicchia, eh. Bene anche la parte. Belle, sta arrivando bene anche il bombolino, sto sentendo bene. Nulla da dire, dai, superati tutti i 9 qua, quindi non ci stanno problemi, la modulazione è forte, non si sente più propagazione, ma si alzerà fra un po'. Qua ancora qualche residuo c'è, si sente e ciccia. Ti prega tu, sei già nido più il room. Anche a te cordialità, ci sono gli amici tuoi, dai, di Sassari che parlano, sicuramente non ti hanno sentito, doppio room. E alla domanda ti rispondo, io sto modulando da Saramonte. Dai, come ti sei? Ehi, 9 sei anche tu, ma deve essere che sei in macchina e tu. Ma che macchina? È positivo, dai. Ma come ti sta arrivando con le tue? Sempre bene, abbiamo già collaudato Gianari, sempre bene arrivi, non ci sono problemi. No, se baci no, che mi, no, chi si baci no, che mi, Gianni. Messi, dove sei allora? Ho voluto che vai copiando Giuseppe che ti fa chiamare. Yeah, già ti copio Giuseppe, eh, oggi libero sei. Tanto, siamo per la tribula di domani. Ma la tribula di domani? Cosa deve andare a vedere la cavalcata? Sì, uomo, negativo. Se è vero quello che dice alle previsioni del tempo, domani canonino. Ah, un canonno che ci siamo messi. Doppio Ru, stanno parlando i tuoi paesani, dai, se no li disturbo nella modulazione, o cambi di canale. Pappagatta, domani ha messo acqua a Napro. E lui qua, sono entrato, tutti accavallando mi state, tutti accavallando, ma dove sei posteggiato Gianni di Chiaramonti, dove sei posteggiato, via Roma. Roma, a su alto, a 5 km da casa. E tutti si stanno stupendo, non è che abbia fatto queste grandi modifiche, sì, ce l'ho messo sotto qualcosina, ma non pensavo di aver migliorato così tanto, Ocla. Ah, io già, ho 40 anni da lì, sei 9:30, anche la fine sei. Te lo giuro, cazzo Claudio, te lo giuro, sono a Sassualtu. Dove sta suonato? Per andare a Erula, amico. Se non mi risulti che sono cosa, fra poco ti ci la radio in orbita. Bravo. La trombetta c'hai, sicuramente c'è stata in aria. Io non so, c'ho la trombetta perché... Non lo so, boh, il microfono non viaggia bene. E vabbè, se la tiene. Va bene già, se va bene a te, figurati a me, non sono problemi, lo sai, io sono molto schietto alla radio, sei 9:30 qua, non arrivo neanche uno, ti posso fare un calcolo matematico, guarda, da Chiaramonti per arrivare 9:30 qua, devi avere solo la direttiva, e basta, puntata sopra di me, con almeno quasi un kilowatt. Questa è la matematica, quindi te lo dico perché è così. Ciao Gianni Doppio Rum, buonasera a tutti. Ciao Claudio, ben sentito. Capito già, cosa hai detto? Stai innescando, eh. Ok. No. Io. E che cavolo ne... Ogni tanto disinnesca questa cosa, non c'è troppa potenza, buh. Che ne so. Va bene. Avanti, Daniele, ancora ci sei? No, io sono qua, dai. Ci sono. Però qui vado una bomboletta e... dinamite. Quando ci metti la roba buona, come dice uno, vai bene. Quando compri roba dei cinesi, ecco il risultato. Mi sono messo, ho comprato roba con i Verdoni, questa è la situazione. Ma non è sempre che l'accendo, mi. Vedi, oggi l'accendo, ma domani magari vado con la roba dei cinesi, stravagante io. Ma vedi che sta arrivando qua. Oggi c'è la cavalcata, va bene così. Va bene così, se va bene lui, detto, va bene anche a me, ma non è Chiaramonti. Ti ho detto per arrivare qua in 9:35, sta arrivando qua a Luca del Monte, fate il conto, se ce l'ho a 500 metri in vista ottica. Capito? Quindi non è a Chiaramonti. O è a Osio, a Santa Vittoria. Poi direttamente a Sassari, da Osio sì, da Santa Vittoria mi può arrivare così, ma non è sicuramente a Chiaramonti. Ok, avanti Bombolino, ripeti, poi se sente a Bombolino, figurati, se risponde a Bombolino non ci arriva a Chiaramonti, quindi ti sei fregato. Avanti Antonio Bombolo, ripeti. Caffa, no, io c'è stato abbastanza forte. E più di 9 qua, No, già lo sento perché il monte è alto, Claudio, il monte è alto, più di 600 metri qua, là. Quando stava qua, a Monterrazzo. Volete che mi dica io, è meglio così allora, dai, che se frega. Gianni, quanto sta visto? Che sei Santiago 9. Però è inutile che vi do Santiago, è rilevante, questo è a terminare a LED, non è a lancetta, non mi fido, capito? È 9, ma sarà di qualcosa di più. Ah, adesso accendo anche il preamplificatore, vediamo un po' come la studia. Quindi io ti sto accendendo tutti i LED allora, se tu mi arrivi 9:30 qua. Ah no, tu non devi neanche parlare, tu scopri tutto, che stai a Opla. Il mio smitterino qua è 9:30 e quindi sarebbe due strisce gialle e una rossa, e tu accendi la rossa, quindi il massimale. E Gianni, gli manca una striscia anche a lui, ma è un casino questo apparato, veramente. Mia, beh, adesso innesca, è un casino, troppa potenza è quello. Bravo. Ehi, a chi è che mi ha chiamato? E poi mi devo allontanare che c'è roba al forno. Chi è che mi ha chiamato? Ehi, casa. Dai, arriva. Non ho capito niente, Franco, basta che sei il convocativo, sei tutto buon, non ho capito cosa hai detto. Che arriva, quanto tempo la messa? Figurati, su nella montagna, adesso. Vabbè. Oh, un attimino di bianco per me che c'è roba al forno, dai, microfono per Giuseppe Tornaro, Giuseppe ci sei? Sì, molto sì. Perché a me la roba bruciata non è che mi gusti tanto. No, le pizze stiamo facendo, capite? Sto guardando il torno che c'è gente, se no stanotte non mangiamo, dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Qua è bello. Va, questo è un punto. Dai, un salutone a tutti, ci sentiamo, dai, qua Dinamite chiude, ciao, grazie per il controllo e grazie per dover chiacchiere. Ciao Gianni, chiaramente, dai. Avanti. Capito, doppio ru. Dove sei arrivato? Dai. Lo sto dicendo, sono a Sassualto. Oh, ma come me lo devo dire? Ho messo qualcosina di potente, ma sono qua. Allora, complimenti, dai, stai arrivando benissimo. Per forza, quando spedisci 100 euro ci arrivi. Comunque dai, vi saluto e alle prossimine, dai. Ciao Gianni, ciao, dai. Ciao Gianni, ci ascoltiamo alle truce, vai. Ehi, allo tuo room, narra. Allora, di rientro, sì. Sì, ma non devi ammazzare la gente che non c'entra, devi ammazzare chi ci rimetta. scritta la faccia la bomba, oh Iulia. Questa bomba non si sa chi ci passa, c'è l'uomo che sta passando al momento che se si rimane non ha colpa di nulla. Ma infatti l'ho detto, se lo mettono almeno 7 al mese, una cosa del genere avrebbe fatto danno e basta, senza prendere persone e niente. Ma l'hanno fatto lo scopo per fare qualche strage sicuramente. E allora, siccome tante pattuglie si è svegliato, ha fatto l'attentato lì. La gente sta facendo di testa, ma con ragione però, con ragione. Guarda che è brutto per un padre di famiglia che ha tutto, trovarsi senza lavoro e cose del genere. È molto brutto. E allora, è bruttissimo, ti sta facendo murti su murti, c'ha croci sulle spalle allucinanti, e poi dice di no. E dice di no, sì. Tanto la gente sta facendo perché non riesce a pagare, dalla vergogna si ammazza. E allora, ti sta portando a fare cose che non vuoi portare, che non vorresti mai fare. Portali qua, potete trovare una soluzione più concreta, ragionarci. La nuova soluzione non sai qual è, intascare i soldi loro e basta, non è una futura di altri. Infatti, è così, è grosso sicuro loro, sguardo la frase. Loro già campano, la voce che se lo tira nel mese, anche i 2 o 3 se li tirano di mesi. Ma questi finanziamenti, quelli dei partiti non li hanno più dati, tanto vedi come se li mangiano, guarda i verdi cosa hanno fatto, compreso l'amministratore del Verdi, cosa hanno fatto? Gli hanno mangiato di là 5 euro al mese, i figli, eccetera, eccetera. 5.000 euro, non 5 euro, 5 euro sarebbe stato il buon, ma 5.000 euro che sta al mese, non li bilano manco che travaglia che si ammazza, e loro 5.000 euro di paghetta li davano, ho capito, poi chissà tutto il resto che si staccava. Come si amministrano i sindacati con i soldi degli iscritti? Si dovrebbero amministrare anche i partiti, capito? Allora, anche l'autofinanziamento, e lei che la finiscono di fare queste questi casini qua, tanto ci sono tutti lì, chi più chi meno, tutti sono nella stessa barca, con la gente. E allora, tu non ci hai sentito stasera? No, non l'ho sentito. C'era Bambolo che è sparito. Caffè, vabbè. Guarda me. E beh, la cavalcata non ci va a vedere mancare. A sentire il profumo dei fiustere del pesce arrosto. Pucci, pucci. Più tardi vado a fare una passeggiata. E vediamo un po' chi c'è in giro, ci sarà il mondo. Infatti, ne approfitta oggi perché poi domani c'è che piove, a quanto pare quest'anno rovina la cavalcata al tempo. Ah, sono più forte per domani. Domani lunedì. Speriamo bene, anche se quanto pare stanno volando. Speriamo che sbaglino perché sono soldi e lì. Lì c'è lavoro di tanta gente, la cavalcata sembra così, ma ci lavorano per gli enti. Tutto un giro, tutta una catena, perché chi viene la mattina poi sta qua, si fa il giro alle bancarelle, compra qualcosa e sia sera tardi. Vengono tutti in questa festa, vengono tutti, diciamo, come si chiama, le commercianti, le cose vengono, capito, i bar, gli ambulanti, insomma, ce n'è per tutti in queste feste, perché la gente è tanta, non viene solo la stanza, ma viene anche dal paese, quindi. E allora, anche da lontano, portano prodotti, e qualcosa sarà ricava, dai. Ma speriamo bene. Incrociamo le dita, perché c'è qualcuno che deve lavorare domani. Tu lavori già domani? Io la domenica non lavoro mai. Ma ragazzi, a tempo là sei, sì. Sì, sì. io per negozio faccio consegne, sono persone di fiducia, eccetera eccetera, faccio un po' di tutto. Gara, già va B. No, il lavoro primario sono le consegne, però la sera per dire avete il negozio, sistemo la merce, faccio tutte queste cose qua, questo magazzino. Poi la mattina faccio le consegne. Brava. Va bene già. Portate, ti va del mezzo, va. Tranquillamente, non è che prendo tutto stipendio, va bene, è uno stipendio buono, va. Pure importante è quello, pure. Pure c'è un po' di crisi anche lì, adesso c'è poco movimento, non si sa perché, non ci sono troppa gente, la gente che ricettano, poi la spesa la fa del rospino, ce la fa più a farla. Di meno. È logico, è tutto un giro. Allora, no, sono costretti, magari mi piace più quella della sera, però sono costretti perché purtroppo è così. Se vuoi tirare il mezzo già devi stringere la cinghia. Allora dove le cose costano di meno, ci perdi di qualità, però purtroppo sei costretto a fare questo pezzo di qua. Ma domani dai, ti saluto, io sono arrivato, ho lasciato un paglietto mentale che esco anche stasera. Dopo tutta la settimana di lavoro, una uscita me la voglio fare, tutta la settimana casa e lavoro, buca, babà. Sì, Gianni, dai, non prosegue con tutto, dai. Ci raccontiamo le prossime sequenzie. Ciao già, grazie a tutta la tua famiglia.